Questa è una storia vera, accaduta 1670 anni fa, a Tebeste, nella Numidia. È stata tratta da documenti storici raccolti nel manoscritto Atti sinceri dei primi martiri. Dione, proconsole romano, fece condurre in catene al suo cospetto il 12 di marzo del 300 d.C. il fante Massimiliano. Gli chiese cos'era quella storia che gli era stata dai capi riferita, se era una menzogna o se era cosa vera. Rispose Massimiliano: è vero, proconsole Dione, non prendo il segno, non prendo la daga. Io, Massimiliano, sono cristiano e non combatterò per la corte. Porto la pace, non porto la morte. Dione gli disse scellerato: chi ti ha condotto a questa conclusione? Se non accetti il segno, se rifiuti la milizia, sarai decapitato. Rinnega il gretto ciarlatano che ti ha ispirato stupide teorie. Avrai salva la vita e sarai riabilitato. Rispose Massimiliano: la vita, proconsole Dione, non è nel segno, non è nella daga. Io, Massimiliano, sono cristiano e accetto con amore la mia sorte, e con amore accetto la morte. Massimiliano, data la risposta, cadde in ginocchio ed abbassò la testa.